Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sulle 87.9 in FM. Potete ascoltarci anche con un computer attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, e cliccare semplicemente il tasto Ascolta la diretta. Un saluto particolare va oggi a tutti coloro e a tutte coloro sono private della loro libertà personale. Da parte mia un saluto particolare a un amico che sta passando un momento molto duro. Io gli sono accanto, anche se poi le parole in questi momenti sono quasi inutili e non servono praticamente a niente. Un abbraccio a te, Santiago, e al tuo piccolino. E ammetto che oggi, ragazzi, Fede, David, per questo film ho avuto pochissimo tempo per prepararmi. E se non ho preparato proprio l'indispensabile, vuol dire che ascolteremo più musica. Sì, qualche notizia presa qua e là da siti a cui un po' tutti possono accedere normalmente. La passione per le ricerche che mi contraddistingue e che mi porta a sconfinare tra internet, giornali e libri. Normalmente mi perdo in interviste anche fatte in lingue che per me sono un po' ostiche da tradurre, ma che caparbiamente cerco di capire e di cogliere e di portare in trasmissione le cose secondo me più belle. Comunque oggi oggi non è così. Oggi ho fatto poco, ho avuto poco tempo, ma mentre facevo, leggevo e freneticamente cercavo di dare un senso alla puntata, ho pensato, mentre ascoltavo la colonna sonora, che mi veniva da dormire e che era meglio che non cercavo, che andava bene che non trovavo niente, perché questo film, considerato un po' racchio dalla critica, è un po' anche un'operazione commerciale fatta da un furbo del cinema, aveva un senso. Per me l'ho avuto, un senso molto più profondo rispetto a quello che i critici, i giornalisti hanno, secondo me, colto nelle loro recensioni e analisi su questo film. Un senso che magari solo chi come me si è lasciato trasportare e si è abbandonato alle braccia di Morfeo mentre sentiva la colonna sonora può assaporare. Quindi il mio consiglio oggi, mentre ascoltate la musica, che è veramente molto soft, molto fiabesca, e le poche tracce di cinema che io vi racconterò, perché sono veramente molto poche, che riguardano questa pellicola, io vi consiglio di sdraiarvi se potete. Chiudete gli occhi, non abbiate paura di addormentarvi. Non so il film, ma la colonna sonora ha sicuramente questo potere, quello di farvi sognare. E se non potrete sognare appoggiati a un cuscino, chiudete comunque gli occhi e lasciatevi trasportare da queste raffinate e eleganti sonorità, per me fino a poco prima di ascoltarle sconosciute. Rilassatevi, perdetevi nei sogni, lasciatevi andare alla vostra parte onirica. Sembra un po' un'introduzione a una session di meditazione trascendentale. No, non vi preoccupate, non è così, è solo la colonna sonora di I Sogni Segreti di Walter Mitty. Ascoltatela e godetevela, e se non abbandonati su un morbido cuscino, se non avete questa fantastica opportunità, se non vi addormentatevi ad occhi aperti mentre sentite queste sonorità nordiche, fiabesche. E grazie soprattutto a Vale, che sempre ci supporta e ci delizia con le sue intuizioni sempre molto giuste e molto belle. Grazie Vale, ti abbraccio. Io ancora penserò durante questa prima traccia alla tua definizione film racchio, mi è piaciuta tanto. Stop here and go. Being the same. Blank head, cross paths, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh. E questo brano con il sound di forse un po' commerciale, comunque è il brano che accompagna anche il trailer di questo film, ovvero I sogni segreti di Walter Mitty. E il brano si chiama Step Out ed è di José González, un argentino che una svedese di origine argentina. E la colonna sonora è, possiamo dire che è indie rock, delicata. I brani scelti, come ha detto Ottavia, cullano dolcemente il mondo dei sogni. Beh, perché poi questo è proprio il succo, no, del film, insomma, sono proprio, è proprio questo il protagonista, che è Ben Stiller, che proprio si lascia trasportare dalla sua parte, insomma, più sognatrice, insomma. E altri autori di questa colonna sonora sono, oltre a José González, un gruppo canadese Of Monsters and Men, un gruppo sempre svedese Junip con José González, poi ci sono i californiani Rog Wave, Grace, una giovanissima Grace Mitchell, e poi vi dirò in sì più, che fa una cover, ma è comunque tutta la colonna sonora è tutta molto nordica, poi ce lo dirà anche il nostro ospite magari se ci azzecco con questa intuizione che ci ha avuto, proprio perché poi molte scene del film sono proprio girate, soprattutto la seconda parte del film, proprio in Groenlandia, in Islanda. E forse Ben Stiller con Theodor Shapiro, che ha curato le musiche del film, forse si è ispirato proprio a questi gruppi, proprio per ricordare le atmosfere che poi ha ripercorso nel film. Questo film è la quinta regia di Stiller, è un rifacimento della commedia Sogni proibiti del 1947 di Norman MacLeod. Il Mitty della commedia del 47 era interpretato da Danny Kaye ed era basata a sua volta sul racconto di The Secret Life of Walter Mitty, scritto da James Thurber nel 1939, di cui magari dopo vi parlerò, perché è uno scrittore, un giornalista con una biografia molto interessante. E poi volevo dire anche che non so se Davide, io non ho guardato la sua scaletta di oggi, sono proprio impreparata, se di José González ci sono anche altri brani, li mettiamo, come, perché sono tutti molto belli, eh? Sì, fra l'altro anche alcuni brani dell'altro gruppo, del gruppo Junip. Sì, veramente interessanti, io non li conoscevo, ma ascoltatela, è proprio, lasciatevi cullare, è bellissima, super soft. Came back with a story to say. were scared down in their homes. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes. The story of the bees with those four dirty paws. Questo era l'indie rock dei of Monsters and Men, che prima ho detto sono canadesi, ma ho proprio toppato la grande perché anche loro sono svedesi. Ah. Sì. E la cantante chitarrista si chiama Nanna Brindi Silmarstort, e poi c'è anche un altro cantante. E infatti il loro stile è fatto proprio di flauti, coretti e l'alternanza tra la voce femminile e quella maschile. E beh, ricordiamo un po' la trama di questo film. Walter Mitty è un uomo gentile, sognatore, e ha questa particolarità, quella di incantarsi, di fermarsi e mentre lavora di sognare a occhi aperti imprese impossibili, eroiche, che lo vedono protagonista. È il suo modo un po' di dribblare il senso di inadeguatezza che sente e la depressione verso una vita piuttosto grigia e monotona. È innamorato naturalmente di una donna che neanche si accorge di lui e vive continuamente avventure immaginarie mentre chiude in questa stanza, in questo seminterrato, di un giornale molto famoso, Life, un giornale americano, che poi ha avuto un po' lo stesso destino, che nella realtà ha avuto lo stesso destino che viene descritto nel film, magari poi lo accenniamo un po'. Beh, insomma, durante questa sua vita abbastanza grigia, illuminata soltanto da queste avventure immaginarie, lui, che è il responsabile della parte, diciamo, della fotografica di questo famosissimo magazine, deve trovare un negativo, che è quello che sarà l'ultima fotografia che rappresenterà il magazine cartaceo, ma questo negativo non si trova, è perso, e quindi Walter finalmente si lascia andare, se ne va dalla sua grigia quotidianità e si mette alla caccia di questo leggendario fotografo di viaggi della rivista per la quale lavora, e sempre sperando di non perdere il lavoro, perché nel frattempo vengono fatti dei tagli terribili all'interno di questo giornale, inizia a inseguire questo mitico fotografo interpretato benissimo da Sean Penn, che pare che era destinato anche a un Oscar. Insomma, io il film, dico la verità, non l'ho visto, però ecco, tutto quello che ho letto mi ha incuriosito molto. Chissà se poi le critiche, le recensioni che ho letto sono veritiere, perché poi è tutto così personale quando si vedono i film, che insomma non bisogna dar troppo retta a nessuno, ecco, bisogna vedere le cose e poi scoprirle con i propri occhi e dare un giudizio che è sempre molto personale. E quindi inizia un viaggio che gli cambierà la vita, e lo vede passare dalla Groenlandia fino all'Himalaya, fino a quando non incontra questo fotografo, e non vi svelo la fine, che è molto romantica, anche se un po' così retorica nella sua conclusione, però dai, è carino, a me è piaciuta l'idea, non so, sono curiosa. Questi erano i Junip, una indie rock band svedese formata da José González, che abbiamo ascoltato prima. Formata questa band nel 98, quindi c'ha già un pochino di anni, e della loro musica si può dire che c'è anche, non in questo brano, ma in alcuni brani anche usano l'organo, il Moog, cose così, e nient'altro, e che ha un... La tendenza musicale è più che altro simile a quella della East Coast degli anni 60. Oh, non so se l'ho detto, ma questo è un film del 2013, in Italia è uscito un anno dopo, è un film per la regia di Ben Stiller, che lo interpreta e se l'è anche prodotto. Titolo originale di Secret Life of Walter Mitty. Sì, sì, e che proprio riprende il titolo del racconto di Thurber, il mio inglese fa acqua da tutte le parti. Beh, comunque, insomma, Ben Stiller usa un altissimo budget per fare questo film, perché insomma se lo fa se lo può permettere, insomma, fa delle cose da colossal quasi, e ha veramente un sacco di soldi a disposizione, e rende proprio epica un po' tutto il film, proprio per rendere proprio epici anche visivamente i sogni ad occhi aperti di questo suo personaggio, e non scontenta nessuno in questo uso dei quattrini che gli vengono dati dalla produzione, perché da una parte si diletta appunto nel girare delle scene molto costose in posti molto suggestivi, dall'altra cerca anche di sottolineare, dare un significato poetico alla sceneggiatura, no? che gli viene insomma proposta, e questo è per esempio la dimensione, non so, di riconquista dei rapporti umani, no? Che spesso sono oggi contraffatti da tutti gli elementi elettronici che abbiamo, non so, i telefonini piuttosto che i social network eccetera, che ci alienano un po' e che fanno perdere un po' la nostra identità, no? Per poi far vedere cose che in realtà non siamo. E questo Walter Mitty non ho visto il film, ho visto dei pezzetti, delle scene, cioè lui che cerca di conquistare questa sua innamorata attraverso un social network di incontri, e parla con questo, con il responsabile del social network, e gli dice: ma no, ma lei non ha messo niente all'interno della sua pagina, ma possibile che lei non abbia fatto nulla? E lui timidamente dice: ma no, io lavoro tutto il giorno, io non ho viaggiato, non ho fatto niente. Allora metta delle cose per far interessare le ragazze, perché nessuno si può interessare a lei così come lei ha creato questa pagina per questo sito di incontri. E effettivamente questi social network molto spesso danno vita a delle personalità che non sono in realtà le nostre, cioè no, è un po' come stare a allucinare un'argenteria che poi alla fine non abbiamo. E Walter Mitty però non lo fa, e in questo senso Sean Penn accontenta un po' l'immaginario collettivo delle persone, no? Che si ritrovano in questa semplicità di questo suo protagonista. Questo è un altro gruppo indie rock, questa volta di Oakland, in California. Stiamo parlando di Rogue Wave. Rogue vuol dire canaglia. Infatti questa parola mi è venuta in mente perché Bush chiamò, no, gli stati canali proprio Rogue Countries, vabbè. Il gruppo è stato creato da Zach Schwartz, e poi il nome d'arte è Zach Rogue, e che ha perso il suo lavoro nell'informatica negli anni 90 e meno male per lui si è buttato sulla musica creando questo gruppo. Il brano si chiama Lake Michigan, e poi mi sono dimenticato di dire una cosa, che la colonna sonora è curata da Theodore Shapiro, che ha già curato altre colonne sonore di film di Ben Stiller, ma anche delle commedie, mi dicevi, no? Sì, sì, lui è autore delle musiche di Il Diavolo Veste Prada e poi moltissime altre cose, Tuyo e Dupri, Dick e Jane, Saskia Hatch, che aveva come protagonista sempre Ben Stiller, Dodgeball, alla fine arriva Polly, sempre con Ben Stiller, e poi ha curato la colonna sonora del cult movie demenziale di Ben Stiller, con cui ha sfondato proprio tutti i botteghini, e che devo dire a me mi è pure divertito, Zoolander, e poi ha fatto un sacco di altre colonne sonore, tutte molto commerciali, però devo dire che se la cava, almeno in questa io non c'ho niente da eccepire, è stata proprio una scoperta, una scelta anche molto precisa, bella, bella, mi è piaciuta tantissimo. Oh, abbiamo il nostro ospite della settimana, Maurizio Di Rienzo, come un anno fa, un po' più di un anno fa. Allora, Maurizio, stavamo parlando dei sogni segreti di Walter Mitty, che era il titolo originale, era l'originale è La vita segreta, The Secret Life, Ben Stiller, tanti mezzi per un film un po' gracilino, questo potremmo sintetizzare per quest'opera, che dici? Ma è innanzitutto un film che, come forse avete detto, è il cui copione, la cui idea è stata palleggiata da vari produttori nei decenni, doveva essere Jim Carrey a farlo, poi man mano la cosa è stata posposta e via dicendo, finché non è diventato un film. È un on the road, è un remake di un film degli anni 40, e detto questo, sicuramente è un film in cui Ben Stiller vuole dare, probabilmente come regista anche, il suo quinto, sesto, una sorta di logica narrativa a qualcosa di molto avventuroso e mentale, perché sono tutte evidentemente cose che nascono dalla fantasia di questo fotografo di Life, della rivista, che sta in cattive acque e che quindi intraprende un viaggio per recuperare qualcosa, oltre che incontrare un fotografo leggendario, non sapendo che quello che deve recuperare ce l'ha praticamente in tasca o quasi. Quindi è un road movie, è un film pretenzioso sotto certi aspetti, però in qualche momento col freno a mano un po' tirato, ma attenzione, secondo me, secondo molti altri, quando l'abbiamo visto, è anche un film diverso da quelli che lui ha realizzato come regista, è un po' più autoriale degli altri, senza essere noioso, forse un po' lungo, però si giova di un, come si dice, production value interessante, perché tecnicamente è un film soddisfacente. Sì. E tutto sommato tutto so girare attorno del suo personaggio, in Groenlandia, Islanda, America, andata e ritorno, la madre, l'altro fotografo, insomma è comunque una storia non usuale assolutamente nel panorama del cinema americano, fatto da attori mainstream come, cioè, di grande successo, attori e anche registi di grande successo come Ben Stiller. Quindi è un unicum che ha avuto insomma un po' di interesse, è andato in vari festival e i critici sono sicuramente divisi, come si suol dire. Io lo trovo un buon trampolino, una buona base, perché credo che prima o poi, dopo la parentesi romanocentrica di Zoolander 2, diciamo risibile, divertita, sono stati 3-4 mesi qui a ogni tanto lo si vedeva per strada, lui con Owen Wilson e gli altri, insomma, l'anno scorso, prima, durante le riprese di Zoolander 2, se la sono goduta questa Roma, e quindi hanno fatto un film che tutto sommato sentivano di dover fare, ma non è stato clamoroso. Ma credo che Ben Stiller, la prossima regia, non lo so quale sarà, però credo, mi aspetto qualcosa da 7+. Senti, ecco, partiamo invece dal lui come attore, perché è così che ha cominciato. Una maschera ha avuto anche subito, anche abbastanza presto, successo, e insomma un'impronta abbastanza caratteristica in tutti i film che ha interpretato. Sì. Come lo vedi tu come interprete? Ma come interprete riflette innanzitutto quello che è un tipo di umorismo, poi in sesta marcia, messo come fosse Formula 1, in settima addirittura, un umorismo che deriva dalla sua genia Jewish, ebraica, newyorkese puro, anche se non c'entra granché con Woody Allen, se non per l'altezza, gli è più alto Woody Allen di poco, ma comunque ha una fisicità preponderante e sicuramente un viso particolare, anche che si può definire anche come dire, bello senza esserlo. Come attore all'inizio mi pare di ricordare che ha fatto un po' il figlio di attori, peraltro, insomma, quindi sta già nell'ambiente, un po' di fatica, ha fatto varie cose, piccoli debutti, show televisivi, quello show televisivo suo personale, insomma, mi pare che mi ricordare una cosa del genere gli ha portato successo, e poi si avventura anche di pari passo nella regia. Per esempio lui fece The Cable Guy, il film con Jim Carrey di quella metà degli anni 90 che forse è andato in Italia meno bene di tutti quanti gli altri fatti da Jim Carrey, di cui è un grande amico, e poi si è costruito il suo gruppo con i fratelli Wilson e con Steve Carell, Vince Vaughn, Will Ferrell, Jack Black, insomma praticamente un gruppo di attori emergenti e soprattutto eclettici, invadenti e bizzarri, che hanno fatto spesso coppie comiche, appunto, hanno costruito coppie comiche di film ai limiti della plausibilità industriale. Però tornando a Ben Stiller, io credo che debba ancora dare abbastanza, e comunque le sue interpretazioni nella pur tra virgolette un po' all'italiana, un po' risaputa saga di presento i miei, vieni dai tuoi, di suoceri contro suoceri, in tutti i pazzi per Mary era stupendo. Ecco, beh, vedo che una epigona di Cameron Diaz interviene subito. No, beh, lì sì, anche perché atleticamente doveva fare un sacco di cose, e il film che lo ha stralanciato, se vogliamo, e arriva a fine anni 90, hai ragione, assolutamente, in tutti i passi per Mary c'è una bella... Anche il primo di Presenti i miei, nonostante sì, la leggerezza del film, io l'ho amato molto. No, ma hai ragione, infatti io mi sono anche divertito in molte cose anche del secondo, poi vedere Dustin Hoffman, c'entra lui, ma vedere Dustin Hoffman e Barbara Streisand, irriverenti, icone straordinarie, due geniacci, che fumano Spinelli a 70 anni, diciamo che andava bene. Mi sono divertito meno in Starsky Hutch, perché ero forse troppo legato per la mia età a quelli lì, ai due della però ecco, Una notte al museo è un'altra di quelle serie, parlavamo dei parenti, non so cosa ne pensiate voi, però non ho visto prima, neanche il primo, non funziona però no. Per esempio il primo suo film da regista, che tra l'altro stavo così studiando per la puntata, non mi sono impelagata a guardare il però primo, pare che, il secondo è rompiscato, il primo è quello Giovani carini giovani carini e disoccupati, esattamente quello che vent'anni dopo dovrebbe girare qualcuno in Italia, Giovani carini e disoccupati, per che pare qualcosa. Che aveva anche una discreta colonna sonora che adesso io non ricordo, e l'ho presa al volo perché mi hai provocato, nel senso che mi volevo documentare anch'io, ci ho messo un pochettino, c'era Mai Sharona, c'era All I Want Is You, me l'ero preparata questa di Giovani che niente si occupa, c'era All I Want Is You degli U2, dico bene, c'era un Lenny Kravitz che comunque non fa mai male, Un The Neck, ma è appunto Mai Sharona, c'era un Gary Glitter che non sapete neanche chi è Gary Glitter, una degli anni 70 che al confronto come si vestivano James Brown e David Bowie era roba da cerimonia ai Parioli, cioè veramente una colonna sonora notevolissima, anche quell'altro Lockout dei Crowded House, e quindi ci consigli di farla prima o poi, sì giovani, per divertirci perché... un po', ma tu vieni poi a commentare il film, a commentare la colonna sonora, Maurizio, commentare la colonna sonora beh commentarla non certo di... no, solo se sei in forma come oggi, però Perché sono in forma? Sei molto in forma. Sono molto in forma. Sì. E sanno la comunicazione che accanto non c'è nessun film italiano in concorso, per questo sono in forma. Sento meglio, tranquillo. No, beh, comunque su. No, grazie dell'invito, accetto e spero di potervi, anche perché quel film l'ho visto una volta sola, una volta e mezzo forse, e me lo ricordo come una delle commedie appunto americane improntate alla realtà e nello stesso tempo consapevoli, giustamente folli e discretamente girati. Mm-hmm. Poi ha fatto altri film, io credo che Tropic Thunder sia un capolavoro, lo vogliamo dire? Dopo no, questo non lo, io non lo, non sai, non mi non lo usavo. Ben Stiller. Ben 2008, Tropic Thunder. Mamma mia. Ma ce lo ricordiamo, come si chiama? Cioè, Robert Downey Jr. in quel film. Non mi è piaciuto tanto Tropic Thunder. Ma siamo una prima parte fenomenale. Ma no, dai, te lo ricordi tu, Federico? Che dici? Io no, non me lo ricordo proprio, lo sai. Ma come no? È quella storia di tutti quei pazzi, c'è un cast mostruoso, Jack Black, c'è Nick Nolte. È una parodia di Apocalypse Now. Sì, and ma Ever, forse non so se. Non l'hai visto. Guarda, può essere Fede, che l'ho visto, ma l'ho visto e, no, e l'ho rimosso. Perché rimosso. Federico è troppo intellettuale per questo genere di commedia. Ma Maurizio, stai a parlare con la persona sbagliata, devi parlare con me questa roba. Federico è intellettuale. Certo, io sono quella un po' più, capito, terra-terra. No, ma più che altro a proposito della terra, lì c'erano delle robe nella giungla finta. Tom Cruise che era un'apparizione che meritava la nomination all'Oscar, la sfiorata, mi pare, non protagonista, perché era veramente una cosa particolare, cioè praticamente è una un film d'azione, si gira un film d'azione e il film è un film sul film d'azione, e guarda Robert Downey Jr. Un simpatico sto Ben Stiller, è uno che è proprio se la sa vendere la sua arte sia di regista che di attore, comunque se la cavarò bene, è proprio il prodotto tipico americano secondo me, no? Ma forse sì, in ogni caso è anche uno che sta a metà fra i clan, perché lavora con Noah Baumbach per esempio, questo nuovo regista il cui ultimo film è uscito adesso con Greta Gerwig nelle sale oggi, aiutatemi col titolo perché è un film che ho visto in originale e quindi mi un po' mi perdo, però c'è un film di Noah Baumbach con Greta Gerwig sì, sorta di Parker Posey degli anni 2010. E Noah Baumbach pure ha lavorato con lui, poi lui ha lavorato Ben Stiller per il Tenenbaum, ha lavorato anche era con Mistress, Wes Anderson, è Mistress è America quello Mistress America America, bravissimo. Quindi insomma ci sono dei pochi gradi di separazione, quindi... È un gran ruffiano. Chi? Ben Stiller è un gran ruffiano. No, io ho sintetizzato tutto dicendo un'altra cosa all'inizio e non la ripeto perché sennò arrivano le querele. Non è un gran ruffiano, è diciamo un anti-rabbino, ma sta da quella parte là. È geniale per certi aspetti. Poi ripeto, il gruppo che ha costituito un po' Elastico, Will Ferrell, Steve Carell, Vince Vaughn, insomma penso che siano delle persone, come dire, che tutti almeno per una sera a settimana vorremmo, così ci liberiamo dei problemi. Senti Maurizio, in chiusura, quest'anno che è trascorso c'è un film la cui colonna sonora ti ha fatto impazzire o quantomeno ti è piaciuta molto? Ti ricordi così a memoria? Che domande. Però Fede, tu li dovresti preparare gli ospiti, Fammi pensare, top film con la colonna sonora quest'anno, semplicemente quest'anno. Ma Pupo non ha girato film, vero? Pupo non ha girato film. Non ha girato film. No, semmai eventualmente sarebbe quella di Pieraccioni, del mezzo capolavoro. Poi procediamo ancora. Ma no, devo dire che la colonna sonora di Natale col Boss invece è straordinaria. No, sul cinema americano non saprei, mi avete preso in conto, però attenzione, fammi pensare, aiutatemi un attimo sugli Oscar, secondo che cosa poteva. No, Oscar niente, va. No, lasciamo stare Tarantino, per carità, no, nel senso va benissimo tutto. No, non mi viene in mente, quindi. No, vabbè, quindi non c'è nessuna cosa che ti vabbè, ha colpito. Vabbè, ci pensi e poi ce lo fai sapere? No, non è che non mi ha colpito, non riesco a visualizzarla. Certo, da. Perché Federico li fa tutti, tu guarda che rispondono tutti come te, fa questa domanda a bruciapelo, come dire, quale cosa ti porteresti sull'isola deserta, no, quale libro che ti porteresti, tu uno dice boh, ma che ne so, adesso fammi pensare, non è impossibile. No, ma dico, ammetto un po' la, come dire, la ignoranza momentanea, la mancanza di sinapsi, perché è chiaro che i film sono tanti, milioni di milioni come quelli di Negroni, insomma, però è complicato ricordare, perché distinguere la colonna sonora, come dire, portanti, i temi originali, da quello che è poi la costruzione del suono e delle canzoni e delle musiche adattate, affiancate alle partiture originali, devo dire che richiede un po' di concentrazione. Dai, concentrati, però, e facci sapere. Sì, vabbè, però l'ultima cosa veramente volevo dire, per un film italiano posso dire assolutamente che la colonna sonora di Vacanze ai Caraibi merita rispetto. Benissimo. Maurizio, un abbraccio, alla prossima. Ciao, state ciao. Buono. Ciao, ciao, ciao. You know I love my lady. We've been together so long. But like a worn-out recording of my favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter that read, if you like piña coladas, getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes of the Cape, then I'm the love that you look for. Write to me and escape. Didn't think about my lady, I know it sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña coladas and getting caught in the rain. I'm not much into health food, but I am into champagne. I've got to meet you by tomorrow, cut through all this red tape. At a bar called Scrappy Malloy's, we'll plan our escape. So I waited with high hopes, then she walked in the place. I knew a smile in an instant, I knew the curve of her face. It was my own lovely lady, and she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew. I never knew you like piña coladas or getting caught in the rain. And the feel of the ocean and the taste of champagne. If you like making love at midnight in the dunes of the Cape, then you're the lady that I look for. Come with me and escape. Un altro brano molto rilassato, onirico, e per chi non si è addormentato, Questa era Jack Johnson, il brano si chiama Escape, un cantante musicista statunitense nato alle Hawaii, che apprende fin da piccolo la passione per il surf dal padre e ottiene anche dei record come più giovane partecipante all'evento di prestigio mondiale, ovvero la competizione mondiale di surf, e poi anche lui sfigatissimo ha un incidente quasi mortale, si schianta contro le rocce, si schianta contro gli scogli e quindi abbandona le competizioni per dedicarsi prima alla cinematografia, ovvero va a Santa Barbara a laurearsi e poi con la musica. E infatti lui ha fatto altre colonne sonore, la più famosa è quella di Curious George, il film d'animazione. Quindi il trauma aiuta la musica. Quello è stato, ha perso il lavoro da informatico e è diventato musicista. Questo si è scrociato. Io ne ho avuti diversi di traumi, ma ancora niente. Anche il nostro compositore Melozzi, no? Anche il Melozzi è riesco vero. Solo a citofonare a suonare il citofono, il campanello a malapena. Impara viene male delle melodie sul citofono, mi viene male anche quello. No, invece Life, che è la rivista per la quale Walter Mitty lavora, è una rivista che conosciamo tutti e che esiste nella realtà, nata come rivista fotografica che vide tra le sue pagine alcuni tra i più belli fotoreportage della storia, tra cui quelli a firma di Robert Capa. La rivista Life ha attraversato diverse fasi fin dalla sua fondazione, che fu nel lontano 1883, pensate, raggiungendo il suo periodo di massimo splendore quando diventò il principale settimanale fotogiornalistico statunitense grazie a Henry Luce, per poi essere trasformata in life.time.com verso la fine del 2009. La versione Life di Conrad, che è lo sceneggiatore del film, è naturalmente romanzata, ma ampiamente basata sull'ascito fotografico mozzafiato di quella reale. E inoltre, vabbè, ma mettiamo un po' di musica, perché c'ho una chicca su Ennio Flaiano che proprio ci tengo a dirla, ma la voglio far accompagnare da un altro pezzo onirico scelto dal nostro David. In some cocktail bar when I met you, I picked you out and pulled you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you got the world at your feet. Success has been so easy on you, but don't forget that I'm the one who put you where you are now. I can put you back down too. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. Don't you want me? You know I can't believe it when you say that you won't see me. Now I wake to find you have changed your mind. You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, oh, oh. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, oh, I was working as a waitress in a cocktail bar. That much is true. Even then I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we have had have been such good times. I still love you, but now I think it's time I live my life alone. I guess it's just what I must do. Can't believe it when you say that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say you don't need me. Now I wake to find you have changed your mind. You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, oh, oh. Don't you want me, baby? Don't you want me? Questo è un altro brano molto soft. Ne approfitto per salutare le mie nipoti e alcune amiche, ovvero Nina, Maya, mi stanno ascoltando, sono molto contento. E questi erano musicisti canadesi, ovvero Bahamas, insieme ai Weather Station. E il brano, Federico, che ha una grande cultura musicale, ha riconosciuto subito. Il brano si chiama Don't You Want Me ed è la cover di un gruppo che sono gli Human League. Sì, e questo film è tratto, come vi dicevo all'inizio, da un breve racconto che fa parte di una raccolta di un grandissimo scrittore e novellista e umorista statunitense dal nome James Grover Tarver, nato nel 1894 e morto nel 1961, che lavorò a lungo per il New Yorker per più di 30 anni, firmando copertine, articoli e soprattutto vignette, perché era, oltre che un giornalista e grande appassionato di radio, ho letto, era anche un fumettista appassionato. E la sua biografia è bellissima, ma insomma ormai abbiamo poco tempo, c'è Arctic Blues che sta per arrivare e anzi vedo già che Luca è qui, quindi non mi posso dilungare, però da piccolo, per evocare questa rimanere nel tema fiabesco del film, anche la biografia di questo grande scrittore, di questo grande giornalista, ha qualcosa di fiabesco. Da piccolo, giocando con i suoi due fratelli William e Robert, perse un occhio, questo gli impedì di partecipare a sport e attività all'aperto, sviluppando in lui spiccate doti di osservatore. Il neurologo Villanor S. Ramastran ha ipotizzato che soffrisse della sindrome di Charles Bonnet, che gli procurava allucinazioni visive alle quali reagiva disegnando. E beh, insomma, questo racconto che insomma ha scritto, ecco, evoca molto questa sindrome, che chissà se ha veramente avuto. E l'ultima cosa che vi volevo leggere a proposito di questo film, però una cosa un po' vecchiotta, eccola qua, una recensione di Ennio Flaiano che uscì sul Mondo del 9 aprile del 1949, che descriveva il protagonista di The Secret Life o Walter Mitty. Diceva: Walter Mitty ha questo di particolare, che ha ormai ripudiato la vita reale, ricca soltanto di difficoltà, di sgradevoli compagnie e di mortificazioni. Per la vita che sa offrirsi con l'immaginazione, momento per momento, egli ha sceso l'ultimo scalino della degradazione romantica e non ha altro conforto che di vedersi vivere, però sotto altre spoglie e in ben altre circostanze che non siano quelle della sua mediocre esistenza. Soltanto in sogno Walter Mitty si concede la forza, l'intelligenza, la bellezza e l'audacia che pure si sa di possedere. E come Madame Bovary, che legge Walter Scott e non sa immaginarsi l'amore se non in meravigliosi scenari gotici all'italiana, così Walter Mitty non può immaginarsi la vita se non negli scenari che gli suggerisce ogni sera il cinema, perché Walter Mitty è il vero uomo nuovo del secolo, la dolce vittima del cinema, e tutta la sua immaginazione è incatenata ai modelli eroici che ormai lo schermo ha proposto all'umanità. E così, una recensione così datata ma così attuale, che mi ha fatto impressione e che non ho potuto leggervi. E con questo vi salutiamo, vi ricordiamo che è possibile fare una sottoscrizione alla radio, anzi è necessario che venga fatta una sottoscrizione alla radio da tutti coloro che possono farla. Non è importante quanto si possa donare alla radio, ma che si faccia che si sia presenti per permettere a queste frequenze di continuare a essere vive e vitali per la felicità di chi le ascolta. Potete farlo sottoscrivendo al conto corrente postale 618040 01. È lontanissimo il foglio, sfido chiunque, manco manco, capito, cioè, se ci avessi un binocolo riuscirei a leggere. Intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56 00185, Roma. Ma senza tutte queste coordinate complicate, senza andare alla posta, potete semplicemente sottoscrivere e fare una sottoscrizione, una donazione alla radio attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. sostieni, e è molto facile. Indirizzo di posta elettronica tracce di cinema@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo dalle 15 alle 16. David, con cosa chiudiamo? Allora, chiudo con un altro brano dei Juniper, questa band svedese di José González, e il brano si chiama Don't Let It Pass, e lo dedico di nuovo a Mai, Annina, a Giordano e Francesca che stanno ascoltando. Ciao. Nothing.